dovessi trovare un luogo per riassumere la narrazione del Vangelo, direi vedere attraverso l'udito. È un capolavoro di narrazione dove il richiamo, come dire, teologico, il richiamo della nostalgia negativa, quindi una parte di psicologia antesimiana. Vabbè, noi facciamo i conti con un testo scritto, per cui la nostra attenzione si misura con le parole, al loro significato, alla strategia narrativa. Tra parentesi, mi sono curiosamente soffermato sul testo in questi giorni e ho goduto di 19 passaggi, 19 riflessioni. No, non le elenco, Solo volevo offrire questa cosa. Dalla vita vuota, smarrita, triste, sconsolata, alla accensione del cuore, all'attivazione creativa dell'intelligenza. Così Pietro, così i due, Cleopa e il compagno di viaggio. Non ci ardeva in cuore la luce. Faccio osservare. È il racconto del nostro camminare, il nostro essere nel mondo, nella nostra personale storia. E ancora, c'è un discepolo senza nome, chissà perché. Poteva essere una donna anche, niente escluso. Tutto da interpretare? Non credo possibile. Comunque c'è questo anonimo, e se provo a dargli il nome, comincio a dargli il mio. Non so se voi date il vostro nome a questo anonimo, perché sono io, dico io, con la mia stanchezza, con le mie delusioni, con le mie tentazioni di tirare i remi in barca, stare alla finestra, abbandonarmi all'indifferenza, ma anche però con i miei desideri, come la mia voglia di cercare ancora, di capire, e quindi anche la parte di fede che c'è in me, che c'è in voi, che sollecita a non fermarmi, a non fermarci. Allora, per leggere questo stupendo episodio, sottolineerei alcuni passaggi che sembrano la celebrazione di una liturgia. C'è il momento che lo direi della strada. Leggendo e rileggendo il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, è tutto un camminare. È tutto un fare una strada, un andare, un ripartire, un piantare la tenda, spiantare la tenda. Dalla partenza di Abramo al cammino del popolo di Israele verso la terra promessa, dal viaggio verso l'esilio al rientro in Palestina. I profeti amavano uscire e fare della strada il luogo dei loro vaticini, dei loro incontri. Gesù e Giovanni Battista hanno fatto della strada il luogo dell'incontro. Per non dire di San Paolo, un instancabile agente di viaggio nel regno di Dio. Anche le primissime comunità venivano chiamate le seguaci della vita, della via. Gesù finirà per dire: io sono la via. Nel brano ascoltato, due camminatori che vanno verso la città alla ricerca di conforto, di notizie veritiere, rassicuranti, consolatorie. C'è un particolare. Fortunatamente sono in due. Fanno strada insieme. Guardano nella stessa direzione. Hanno lo stesso dolore. Coltivano lo stesso desiderio. Sono in due. Sulla strada ecco uno sconosciuto. Quando dico sono in due, voi capite che scenario si apre. La coppia, la famiglia, l'amicizia. Per fortuna in due. Sulla strada ecco uno sconosciuto si accosta. Dico, è quel Gesù lasciato nelle chiese? Come se nella vita, la strada, il cammino sia senza la sua presenza. Egli abita i passi dei cercatori. Anzi, precede, io sono con voi. L'ha ripetuto lui. Poi due si fermano, ma sono tristi, per dire, non restare chiusi nel momento della sofferenza, fermarsi accanto a qualcuno, accanto. Per cui allora la tristezza, il dubbio, le difficoltà, forse cedono al dialogo, che può essere una carezza, che può essere una parola meno possibile, ma una parola. È come dire, c'è la, usare il gergo, l'elaborazione del lutto. Le perdite, le separazioni, gli abbandoni, non è nel lutto o nella nostalgia religiosa che Cristo li raggiunge. Sottolineo un secondo passaggio e abuso un po' della vostra attenzione. Un secondo momento, direi, dell'ascolto di una parola nuova. I due avevano capito male, hanno visto solo la superficie dei fatti, la corteccia degli eventi. Gesù invece, incontrandoli, comincia a leggere, a raccontare il dolore di Dio, la vita degli uomini, come dire, spezza la corteccia attorno ai fatti accaduti, penetra dentro lo scandalo della croce. Non era importante che per noi credenti, in qualche maniera, per il credente il continuo confronto tra parola di Dio e eventi è necessario. La svolta del racconto di Emmaus, la svolta del cuore appesantito, avviene qui, lungo la strada. Gesù, come dire, sposta in una maniera forte i discepoli e spiega: è la parola definitiva che occorre custodire, scrutare, capire, pregare. E c'è il terzo momento, quello della strada, della casa, del pane, il canto del pane. Lo riconobbero allo spezzare del pane. Da questo gesto, che dice dono, si riconosce Cristo. Dalla croce al pane, da una vita che si occupa di altre vite, da un gesto che indica soccorso alla fame, come prima sulla strada era soccorso alla solitudine e alla tristezza. Il cuore del Vangelo è proprio questo: riconoscerci nello spezzare il pane, il condividere il tempo, il condividere le proprie sensibilità, quello che si è, quello che si sente, quello che si sa, quello che si desidera. È un dono. Chiudo. Il nostro vivere più felici, vivere la fede, di che cosa ha bisogno? Appunto, di andare per la strada. Quando dico strada, è significato molto più ampio. Là dove si incontrano i volti, là dove si incontrano dei compagni di viaggio, e poi questa parola che arriva, che apre gli occhi. Di conseguenza ci si spezza il pane, non solo qui nell'Eucaristia. Per noi quindi è importante tenere il cuore acceso. C'è un'espressione conclusiva che è bellissima. Non ardeva forse il nostro cuore nell'ascoltare la parola del pellegrino sconosciuto? La nostalgia. Questa evocazione originaria di ciò che è vero, di ciò che è innocente, di ciò che si è vissuto in libertà e responsabilità, questo ce lo portiamo con noi. Ed è per questo che attraverso la parola, l'udito, i nostri cuori si aprono. Ora continuate voi, ognuno per sé, ognuno per la coppia, e così via. Gloria a Dio.